diciamo che è abbastanza semplice da spiegare, nel senso che le indagini sull'omicidio di Maria Lefranco hanno portato più o meno a identificare l'area diciamo criminale nella quale è maturato, sia dal punto di vista di mandanti che di esecutori, l'omicidio. E le indagini hanno portato a identificare questo gruppo criminale che si chiama milizia. La milizia è un'organizzazione criminale peculiare della città di Rio de Janeiro, che è una sorta di mafia paramilitare, cioè dal punto di vista della struttura criminale, anche dal punto di vista delle attività e del modus operandi, è molto simile alla nostra mafia, diciamo, ma è composta non da mafiosi in quanto tali, ma da poliziotti di solito in servizio o cacciati, riformati dalle corporazioni, per cui mantengono questo profilo tra la legalità e l'illegalità che le rende un'organizzazione abbastanza particolare. Dunque, sin dal primissimo momento, da quando si è cominciato a investigare sull'omicidio di Marielli, più o meno il dito era andato verso quella direzione, perché il potere criminale, economico e di fuoco riportava lì, perché non ci sono poi tantissime organizzazioni in grado di uccidere in quel modo e a quel livello politico. Comunque le indagini sono andate avanti e si è arrivati a questo ufficio del crimine, come si chiama questa cellula, che è composta appunto da due ex poliziotti, uno tratto del BOPE, il famoso battaglione di operazioni speciali di Rio de Janeiro, e fino a qua tutto bene. Il problema è emerso quando, stavolta la rete Globo ha acquisito questi atti, è emerso che nei primi anni 2000, fino a metà degli anni 2000, questi due poliziotti, che poi sono passati dall'altra parte del fiume, quindi con la criminalità, erano stati omaggiati dall'allora deputato statale, consigliere regionale, possiamo dire, Flavio Bolsonaro, che appunto aveva fatto ottenere a queste persone degli importanti riconoscimenti istituzionali da parte dello Stato di Rio de Janeiro per i grandi servizi offerti alla cittadinanza come in contrasto alla criminalità. Ovviamente, a quanto pare, dalle indagini, non è che siano stati questi grandi investigatori abbiano fatto del bene per la cittadinanza. Il fatto sta e resta che l'allora deputato, oggi senatore federale, senatore nel Parlamento nazionale e figlio del presidente, ha omaggiato delle persone che in realtà sono diventati dei criminali, perché le indagini sono abbastanza chiare in questo senso, e in un periodo nel quale uno pare fosse già stato inquisito per una serie di problemi. Se non bastasse, è emerso che la madre e la moglie, la compagna di uno di questi due criminali, sono stati assunti entrambi come assistenti nella segreteria politica del deputato in un periodo recentissimo. Cioè sono state fino all'ultima legislatura, che poi si è sciolta per nuove elezioni, per cui c'è questo legame molto forte, e questo ha fatto discutere molto, molto di più in Brasile, perché qualcuno ha storto il naso, nel senso di dire: se voi comunque come famiglia, come presidente, vi siete candidati come i paladini della giustizia, dell'ordine, della disciplina, della polizia, della lotta alla corruzione, poi se emergono queste cose qualcosa di strano c'è. In questo caso la risposta della popolazione purtroppo è anche molto condizionato dalla paura, perché queste organizzazioni criminali sono particolarmente forti, le strutture di contenimento, cioè la polizia, la magistratura, non sembrano essere abbastanza forti da poterle contenere, per cui molto spesso le persone terrorizzate o comunque impaurite vanno avanti e non ci pensano, o quantomeno cercano di non finire nelle maglie. E questo è più o meno l'ambiente criminale nel quale ovviamente si riproducono e hanno grandissima rilevanza tutte le mafie, si sviluppano in ambienti caratterizzati dalla paura da parte della popolazione.